Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman e Masha continuarono a viaggiare e si fermarono in un albergo non lontano dal confine canadese. Rimanevano loro soltanto pochi giorni e l'albergo non era molto caro. Una fila di villini, le dépendances, sorgeva di fronte al lago. Uomini e donne in costume da bagno giocavano a carte all'aperto. Su un campo da tennis, un rabbino con lo zucchetto e i calzoncini corti giocava contro la moglie che portava la parrucca di un'ortodossa. In una maca tra due pini erano sdraiati un ragazzo e una ragazza che ridacchiavano. Il ragazzo aveva la fronte alta, una zazzera di capelli scompigliati e il torace esile, peloso. La ragazza indossava un attillato costume da bagno e portava al collo la stella di Davide. La proprietaria aveva detto a Herman che la cucina era severamente kasher e che tutti gli ospiti potevano essere considerati una sola lieta famiglia. Accompagnò lui e Masha fino a un villino dalle pareti non verniciate e dal soffitto a travi. I clienti dell'albergo mangiavano insieme su lunghe tavole nella sala da pranzo. All'ora di pranzo, madri esiguamente vestite ficcavano cibo nella bocca dei figli, decisi a crescere americani alti 1,80 m. I più piccoli strillavano, soffocavano, sputavano la verdura che si voleva costringerli a inghiottire. Herman immaginò che i loro occhi rosi stessero dicendo: «Ci rifiutiamo di soffrire soltanto per soddisfare le vostre ambizioni vanesie». Il rabbino giocatore di tennis si esibiva in una serie di spiritosaggini. I camerieri, studenti universitari o di yeshiva, scherzavano con le donne più anziane e civettavano con le ragazze. Cominciarono immediatamente a fare domande a Masha per sapere da dove venisse e la tempestarono di complimenti insinuanti. Herman si sentì stringere la gola. Non riuscì a inghiottire né il fegato con le cipolle, né il grasso pezzo di manzo, né la cima ripiena. Le donne, al loro tavolo, protestarono. «Ma che razza di uomo è? Non mangia!» Da quando era stato nel fienile di Jadwiga, nel campo dei profughi in Germania e anche durante gli anni di lotte in America, Herman aveva perduto ogni contatto con quel tipo di ebrei moderni. Ma adesso, eccoli di nuovo. Un poeta yiddish dalla faccia tonda e dai capelli ricci stava discutendo con il rabbino. Il poeta, che si definiva ateo, parlò di mondanità, di cultura, del territorio ebraico di Bir Abidjan, di antisemitismo. Il rabbino rispettò il rito, lavandosi le mani dopo il pasto e farfugliando la benedizione, mentre il poeta continuava a eruttare frasi. In certi momenti gli occhi del rabbino diventavano vitrei ed egli cantilenava alcune parole a voce alta. Una donna grassa sostenne che lo yiddish era un gergo, una cozzaglia di parole senza regole grammaticali. Un ebreo barbuto, con gli occhiali cerchiati in oro e uno zucchetto di velluto, si alzò e tenne un discorso sull'appena fondato Stato di Israele, chiedendo contributi. Masha era assorta in una conversazione con le altre donne. Costoro la chiamavano signora Broder e volevano sapere se lei e Herman erano sposati, quanti figli avevano, quale lavoro faceva Herman. Quest'ultimo abbassò la testa. Ogni contatto con la gente evocava in lui il terrore. Esisteva sempre la possibilità che qualcuno potesse conoscere lui e Jadwiga per averli veduti a Brooklyn. Un tizio anziano della Galizia sembrava essersi avvinghiato al cognome Broder e cominciò a sottoporre Herman a un insistente interrogatorio per sapere se avesse o meno parenti a Lemberg, a Tarnow, a Brode, a Drohovic, quanto a lui aveva un parente con lo stesso cognome, un cugino in secondo e in terzo grado. Sarebbe dovuto diventare rabbino, ma ora faceva l'avvocato ed era un personaggio importante nel partito ortodosso di Tel Aviv. Quanto più Herman rispondeva, tanto più l'altro continuava a sondarlo. Si sarebbe detto deciso a dimostrare che lui e Herman erano parenti. Tutte le donne a tavola facevano commenti sulla bellezza di Masha, sul suo corpo snello, su come vestiva. Quando seppero come avesse cucito lei stessa l'abito che indossava, vollero sapere se sarebbe stata disposta a cucire anche per altri. Avevano tutte capi di vestiario che dovevano essere stretti, allargati, allungati, accorciati. Herman, pur avendo mangiato pochissimo, si alzò da tavola con una sensazione di pesantezza allo stomaco. Andò a fare una passeggiata con Masha. Non si era reso conto di essere diventato così impaziente durante gli anni di solitudine, così distaccato da ogni rapporto con gli altri esseri umani. Ora desiderava una cosa sola: allontanarsi al più presto possibile. Camminava tanto in fretta che Masha rimase indietro. «Ma perché stai correndo? Non sei inseguito da nessuno!» Stavano salendo su per la collina. Herman continuava a voltarsi indietro. Sarebbe stato possibile nascondersi ai nazisti lì? Qualcuno sarebbe stato disposto a nascondere Masha e lui in un fienile? Aveva appena terminato di pranzare e già si crucciava pensando a come avrebbe potuto affrontare quella gente all'ora di cena. Non ce l'avrebbe fatta a mettersi a sedere tra loro, a guardare i bambini costretti a mangiare che sputavano tutto sul pavimento. Non ce l'avrebbe fatta ad ascoltare tutte quelle parole vuote. In città non smetteva mai di desiderare la natura, la vita all'aria libera, ma in realtà non era tagliato per quella tranquillità. Masha aveva paura dei cani, ogni volta che ne udiva uno abbaiare afferrava il braccio di Herman. Ben presto disse che non poteva andare oltre con le scarpe e coi tacchi alti. I contadini accanto ai quali passavano osservavano con ansia. Quando tornarono all'albergo, Herman decise a un tratto di fare un giro con una delle barche a remi riservate ai clienti. Masha cercò di dissuaderlo. «Ci farei annegare tutti e due!» Ma in ultimo sedette sulla barca e accese una sigaretta. Herman era capace di remare, però né lui né Masha sapevano nuotare. Il cielo era limpido, di un azzurro chiaro, e stava soffiando il vento. Onde si alzavano e si abbassavano, schiaffeggiando i fianchi della barca, facendola dondolare come una culla. A volte egli udiva uno scroscio, come se qualche mostro si stesse celando in agguato nell'acqua e nuotasse silenziosamente dietro di loro, pronto a capovolgere la barca da un momento all'altro. Masha osservava Herman con un'espressione preoccupata, impartendogli istruzioni, criticandolo. Riponeva ben poca fiducia nelle sue capacità fisiche, o forse diffidava della propria fortuna. «Guarda quella farfalla!» la indicò con un dito. «Come aveva fatto in nome del cielo a volare così lontano dalla riva? Sarebbe riuscita a tornare indietro?» La farfalla svolazzava a mezz'aria, zigzagò, senza volare in alcuna direzione particolare, e a un tratto scomparve. Le onde, un ricamo alternato d'oro ed ombra, tramutavano il lago in una gigantesca scacchiera liquida. «Attento, c'è uno scoglio!» Masha si drizzò all'improvviso e la barca dondolò. Herman si affrettò a remare indietro. Uno scoglio sporgeva dall'acqua, frastagliato e appuntito, coperto di muschio, un residuo dell'era glaciale e del ghiacciaio che un tempo aveva scavato quel bacino nel suolo. Aveva resistito alle piogge, alle nevi, ai geli, alle calure. Non aveva paura di nessuno. Non gli occorreva la redenzione. Era già stato redento. Herman riportò la barca a riva e lui e Masha discesero. Tornarono nel loro villino, si misero a letto e distesero su di sé la coperta di lana. Gli occhi chiusi di Masha sembravano sorridere sotto le palpebre. Poi le labbra di lei cominciarono a muoversi. Herman la fissò, la conosceva. Persino le sue fattezze non gli sembravano più familiari. Non aveva mai realmente osservato la struttura del naso, del mento, della fronte. E che cosa le passava per la mente? Masha tremò e si drizzò a sedere. «Ho appena veduto mio padre!» Tacque per qualche tempo. Poi domandò. «Che giorno è oggi?» Herman le precisò la data. «Sono passate 7 settimane da quando ho avuto la visita», disse Masha. A tutta prima lui non capì di che cosa stava parlando. Ogni donna della sua vita si riferiva al proprio maestro con un nome diverso. Il giorno santo, l'ospite, la bandiera rossa. Cominciò a mettersi allerta e calcolò insieme a lei il periodo trascorso. «Sì, sono in ritardo», disse Herman. «Non ritardano mai nel caso, per quanto possa essere normale sotto altri aspetti, in questo sono normale al 100%. «Va da un medico. Non possono dir niente così presto. Aspetterò ancora per una settimana. Un aborto, qui negli Stati Uniti, costa $500. E per giunta è pericoloso. Una donna che lavorava nel ristorante volle abortire, le venne una setticemia e fu la sua fine. Che brutto modo di morire. E che cosa farebbe mia madre se dovesse accadermi qualcosa? Sono sicura che tu la lasceresti morire di fame. Non essere melodrammatica, non stai ancora morendo. Quanto dista la vita dalla morte? Ho visto morire molta gente e lo so. Il rabbino, a quanto pareva, aveva preparato una nuova serie di barzellette per il pasto serale. La sua riserva di aneddoti sembrava inesauribile. Le donne ridacchiavano, gli studenti camerieri servivano la cena rumorosamente, i bambini, sonnacchiosi, non volevano mangiare e le madri davano loro schiaffi sulle mani. Una donna, arrivata di recente in America, mandò indietro la pietanza e il cameriere domandò: «Con Hitler mangiava meglio?» In seguito si riunirono tutti nel salone. Il poeta Yiddish pronunciò un discorso lodando Stalin e recitò poesie proletarie. Un'attrice imitò personaggi celebri, piangeva, rideva, strillava e faceva smorfie. Un attore che aveva recitato in un teatro di varietà Yiddish a New York raccontò barzellette ribalde a proposito di un marito tradito. Donne e ragazze ridevano tanto da piegarsi in due. «Ma perché è tutto così penoso per me?» si domandò Herman. La volgarità di quel salone sembrava negare il senso del creato. Svergognava le sofferenze dell'Olocausto. Alcuni di quegli individui erano profughi sfuggiti al terrore nazista. Falene entravano volando attraverso la porta aperta, attirate dalle vivide luci, tratte in inganno da un falso giorno. Svolazzavano qua e là per qualche tempo, poi cadevano morte per aver cozzato contro la parete o per essersi scottate sulle lampadine. Herman si guardò attorno e vide che Masha stava ballando con un uomo enorme dalla camicia a scacchi e dai calzoni corti, verdi, che gli scoprivano le cosce pelose. Cingeva Masha alla vita. Lei a malapena gli arrivava alla spalla con la mano. Uno dei camerieri suonava la tromba e un altro picchiava su un tamburo. Un terzo suonava uno strumento improvvisato che sembrava una pentola nella quale fossero stati praticati dei fori. Da quando Herman era partito da New York con Masha, gli erano capitate poche occasioni di restare solo. Dopo qualche esitazione, uscì senza farsi vedere da lei. La notte era in lune e gelida. Passò accanto a una fattoria. Dentro un recinto, un vitello contemplava il buio con lo smarrimento di una creatura muta. I suoi grandi occhi sembravano domandare: «Chi sono? Per quale ragione mi trovo qui?» Brezze fredde soffiavano dalle montagne, meteoriti striavano il cielo, il salone dell'albergo diventò più piccolo in lontananza e rimase, in basso, come una lucciola posata al suolo. Nonostante tutte le sue negazioni, Masha continuava a possedere gli istinti normali. Voleva un marito, figli, una casa, amava la musica, il teatro e rideva delle battute comiche degli attori. In Herman, invece, restava una sofferenza che non poteva essere placata. Egli non era una vittima di Hitler, era stato una vittima molto prima dei tempi di Hitler. Giunse davanti allo scheletro di una casa bruciata e si fermò. Attratto dall'odore pungente, dall'ingresso fuligginoso, dal nero comignolo, entrò. Se i demoni esistevano, dovevano dimorare tra quelle rovine. E poiché lui non riusciva a sopportare gli esseri umani, forse gli spettri erano i suoi compagni naturali. Sarebbe potuto restare tra quelle macerie per il resto della vita? Rimase in piedi tra i muri neri, aspirando l'odore dell'incendio estinto da tempo. Udiva la notte respirare. Immaginò addirittura che russasse nel sonno. Il silenzio gli squillava dentro le orecchie. Camminò su carboni, ceneri. No, non poteva far parte di tutto quel recitare, ridere, cantare, danzare. Attraverso un buco che un tempo era stato una finestra, vide il cielo buio, un papiro celestiale pieno di geroglifici. Il suo sguardo si fissò su tre stelle, la cui disposizione somigliava alla vocale ebrea Segol. Stava contemplando tre soli, ognuno probabilmente con i suoi pianeti e le sue comete. Com'era strano che un frammento di tessuto nervoso inserito dentro un cranio fosse capace di vedere oggetti così lontani. Com'era singolare che un gran numero di cervelli continuassero a porsi interrogativi e non riuscissero a pervenire ad alcuna conclusione. Tutti tacevano. Dio, e le creature che parlavano non rivelavano nulla. Tornò indietro, verso il salone dell'albergo, che ormai era buio. L'edificio, fino a poco prima colmo di strepito, era silenzioso e abbandonato, calato nell'autoconcentrazione di tutti gli oggetti inanimati. Un'unica lampada era accesa all'ingresso dell'albergo dove si trovava la portineria, ma non vide nessuno là. Una riflessione balenò nella sua mente. Forse Masha era andata a letto con il ballerino dai calzoni corti, verdi. Sembrava improbabile, ma tutto era possibile tra la gente moderna priva di ogni fede. In che cosa consisteva la civiltà, se non nell'assassinio e nella fornicazione? Masha dovette riconoscere i suoi passi. Una porta si aprì ed Herman riconobbe la voce di lei. Masha prese una pillola per dormire e si addormentò, ma Herman rimase sveglio. Anzitutto combatté la solita guerra contro i nazisti, li bombardò con alcune bombe atomiche, ne fece saltare in aria gli eserciti mediante missili misteriosi, sollevò la loro flotta dall'oceano e la posò sulla terraferma accanto alla villa di Hitler. Per quanto ci si provasse, non riuscì a fermare i propri pensieri. Come una macchina sfuggita al controllo, di nuovo stava bevendo quella pozione che gli consentiva di sondare il tempo, lo spazio, la cosa in sé. Quelle cogitazioni lo conducevano sempre alla stessa conclusione. Dio, o qualsiasi cosa egli potesse essere, era senza dubbio savio, ma non esisteva alcun indizio della sua misericordia. Se un Dio misericordioso esisteva nella gerarchia celeste, allora si trattava soltanto di una piccola divinità impotente, una sorta di ebreo celestiale tra i nazisti celestiali. Finché una persona non trova il coraggio di abbandonare questo mondo, può soltanto nascondersi e cercare di tirare avanti con l'aiuto dell'alcol, dell'oppio, di un fienile a Lipsk o di una stanzuccia nell'appartamento di Chifra Pua. Si addormentò e sognò un'eclisse di sole e processioni funebri. Si susseguivano l'una all'altra lunghi catafalchi trainati da cavalli neri sui quali viaggiavano giganti. Erano al contempo i morti e i piangenti. Come può mai essere questo? Si domandò nel sogno. È possibile che una tribù condannata porti se stessa alla sepoltura? Brandivano torce, cantavano una nenia funebre, la cui malinconia era ultraterrena. Le loro vesti si trascinavano al suolo, le punte degli elmetti arrivavano fino alle nubi. Herman sussultò e le molle arrugginite del letto cigolarono. Si destò spaventato, sudato, aveva lo stomaco gonfio e la vescica piena, il guanciale era bagnato e contorto come biancheria attorcigliata dopo il bucato per spremere l'acqua. Ma lei non aveva dormito? Un'ora? O sei? Nel villino regnava una fitta oscurità e un gelo invernale. Masha si era drizzata a sedere sul letto, la faccia pallida, come una chiazza di luce nell'oscurità. «Herman, ho paura dell'operazione!» gridò con voce rauca. Una voce non dissimile a quella di Chifra Pua. Trascorsero alcuni momenti prima che Herman riuscisse a capire di che cosa stava parlando. Va bene, d'accordo. Forse Leon accetterà di divorziare da me. Gli parlerò con franchezza. Se non vorrà il divorzio, il bambino porterà il suo nome. Io non posso divorziare da Jadwiga. Masha cominciò a infuriarsi. Non puoi. Quando il re d'Inghilterra volle sposare la donna che amava, rinunciò al trono, e tu non puoi liberarti di una stupida contadina, non c'è legge che possa costringerti a vivere con lei. Nel peggiore dei casi dovrai pagarle gli alimenti, glieli pagherò io, farò gli straordinari, li pagherò. Lo sai che un divorzio ucciderebbe Jadwiga? Non so niente di simile. Dimmi, è stato un rabbino a unirti in matrimonio con quella cagna? Un rabbino, no. Come vi siete sposati, allora? È stato un matrimonio civile. Non vale niente secondo la legge ebraica. Sposami con una cerimonia ebraica. Non ho bisogno dei documenti dei gentili. Nessun rabbino ci unirà in matrimonio senza la licenza. Questo mi dimentica che non è polonia. Troverò un rabbino disposto a sposarci. Sarebbe sempre bigamia, peggio ancora poligamia. Nessuno lo saprà mai. Soltanto mia madre e Dio. ce ne andremo da quella casa e tu potrai farti chiamare con qualsiasi nome vorrai. Se la tua contadina ti è tanto cara da non poter vivere senza di lei, potrete trascorrere insieme un giorno alla settimana. Io mi rassegnerò. Prima o poi mi scoprirebbero, mi rimanderebbero in Europa. Finché non esiste un certificato di matrimonio, nessuno è in grado di dimostrare che siamo marito e moglie. Potrai bruciare la Ketubah subito dopo la cerimonia nuziale. La nascita del bambino dovrai denunciarla. Escogiteremo qualcosa. È già abbastanza che sia disposta a dividerti con una simile idiota, lasciami finire. È un'ora intera che me ne sto seduta su questo letto a pensare. Se non sei d'accordo, puoi andartene immediatamente e non tornare mai più. Troverò un medico che mi procurerà l'aborto, ma tu non mi farai rivedere mai più la tua faccia. Ti do un minuto di tempo per rispondere. Se sarà un no, potrai vestirti e uscire. Non ti vorrei qui nemmeno per un altro secondo. Mi stai chiedendo di violare la legge? Avrò paura di ogni poliziotto per la strada. Hai paura ugualmente. Rispondi? Sì. Masha tacque per molto tempo. Il limite è libero. Tanto per dire qualcosa? Dovrò ricominciare tutto da capo domani? No, è deciso. Ci vuole un ultimatum per indurti a prendere una qualsiasi decisione. Per prima cosa, domani mattina telefonerò a Leon e gli dirò che deve concedermi il divorzio. Se rifiuterà, lo distruggerò. Che cosa vuoi fare, sparargli? Sono capace anche di questo, ma ho altri modi per rovinarlo. Giuridicamente è poco kasher quanto il porco. Se lo denunciassi, potrebbe essere espulso domani stesso. Secondo la legge ebraica, il nostro bambino sarà un bastardo in ogni caso. È stato concepito prima del divorzio. La legge ebraica e tutte le altre leggi hanno per me la stessa importanza della brina dell'anno scorso. Sto facendo questo per mia madre, soltanto per lei. Masha discese dal letto e si aggirò qua e là, al buio. Un gallo cantò, altri galli gli risposero. Una luce bluastra cominciò a splendere al di là della finestra. La notte estiva era finita. Gli uccelli presero a cinguettare e a fischiare tutti insieme. Herman non riuscì più a restare a letto. Si alzò, si infilò i calzoni, si mise le scarpe, aprì la porta. Lo spazio esterno era impegnato dai suoi compiti mattutini. Il sole nascente aveva improvvisato un dipinto infantile nel cielo notturno, macchie, chiazze, un pasticcio di colori. La rugiada si era posata sull'erba e una nebbia bianco latte aggravava sul lago. Tre uccellini appollaiati sul ramo di un albero, accanto al villino, tenevano i soffici becchi spalancati, mentre la madre le imbeccava con frammenti di steli e di vermi. Volava avanti e indietro con la diligenza pervicace di chi conosce il proprio dovere. Il sole spuntò dietro il lago. Fiamme accesero l'acqua. Una pigna cadde, pronta a rendere fruttuosa la terra, a generare un nuovo pino. Masha uscì a piedi nudi, con la lunga camicia da notte, una sigaretta ciondolante dalle labbra. «Ho desiderato di avere un figlio da te sin dal giorno che ci siamo conosciuti».